Uno dei litigi più dirompenti della mia vita avvenne subito dopo una cena sontuosa. C'era altra gente, ma i protagonisti del litigio sono stati un noto filosofo, il mio amico Paolo e il sottoscritto. Alla fine le nostre strade si separarono in due, io e il mio amico Paolo da una parte e il noto filosofo dall'altra, irrimediabilmente. E anche se il noto filosofo nel frattempo non ci avesse lasciati per sempre, quel litigio non si sarebbe mai più ricomposto, come non si ricomporrà mai la frattura fra l'intera categoria dei filosofi e del sottoscritto, roba comunque di 30 anni fa. Nathalie Glanz e Bernardo Huberman, sulle scienze del mese scorso, rispolverando la teoria dei giochi di von Neumann e di Morgenstern, ci sottopongono il dilemma del commensale senza scrupoli. In parole povere si tratta di questo, no? Se c'è un accordo implicito fra un gruppo di amici per dividere in parti uguali il conto del ristorante, a ciascuno di costoro può sorgere il problema di cosa ordinare. Un piatto molto o poco costoso? Se uno opta per un piatto molto costoso, rischia di appesantire il conto collettivo per una soddisfazione solo e soltanto propria. Se uno invece opta per un piatto poco costoso, rischia, a causa delle scelte altrui, di pagarlo molto di più di quello che vale. Il dilemma l'abbiamo vissuto, credo, tutti quanti, tanto che ciascuno di noi ha selezionato gli amici con cui è un piacere uscire a cena dagli amici con cui non ci uscirebbe per nessun motivo. Fra persone educate ad un minimo di sensibilità sociale, la questione si risolve con tanta attenzione e minimi adattamenti reciproci, fra qualche concessione, qualche piccola concessione lussuosa e qualche piccolo sacrificio sparagnino. La questione si risolve con tale puntualità che nessun commensale ha mai pensato ad un modello matematico per calcolare i suoi rischi. La Glanz e Huberman invece al modello matematico ci hanno pensato, e come, in grazia soprattutto del fatto che il dilemma del commensale senza scrupoli lo si può ritrovare più o meno simile in molti, molti, moltissimi altri drammi della condizione umana. Per esempio lo si può ritrovare allorquando qualcuno deve decidere se buttare per strada un pezzo di carta che non gli serve più o ripiegarselo in tasca in attesa del cestino. Per esempio, può capitare allorquando si tratta di scegliere fra mettere al mondo un figlio e contribuire così alla crescita demografica nel pianeta, oppure astenersene contenendola. Per esempio, può capitare allorquando si tratta di ridurre gli armamenti. Chi comincia? Per esempio, tanto per farne ancora uno, per esempio può capitare quando si tratta di decidere se partecipare ad un movimento rivoluzionario o no. Vado in strada a combattere contro il regime o no? Quando ci si va e si è in pochi, le probabilità di finire male sono molte, ma quando ci si va e si è in tanti, le probabilità di finire male diminuiscono. Anche su questi calcoli vengono decisi i nostri comportamenti. Prosch e Abram, due sociologi dell'Università di Erlangen, hanno studiato le manifestazioni popolari a Lipsia che hanno contribuito a smantellare la Repubblica Democratica Tedesca e asseriscono che a Lipsia, nel giro di 6 settimane, i manifestanti sono passati da poche unità a 500.000. Evidentemente c'è un momento in cui si innescano comportamenti cooperativi, mentre vengono abbandonati gli atteggiamenti menefreghistici o elusivi. In proposito, dall'applicazione dei modelli matematici di tutti questi sociologi si ricava quanto segue. I comportamenti cooperativi, come scelta spontanea, sorgono meglio e più spesso in piccoli gruppi. Vabbè, il che starebbe a confermare che mettere d'accordo molti è più difficile che metterne d'accordo pochi. Ma quei pochi di prima, attenti, perché possono essere i molti del dopo. Secondo, i comportamenti cooperativi aumentano allorché la situazione viene iterata ripetutamente. Come dire che prendi una legnata oggi e una domani, dopo un po', di solito, vabbè, di solito quando ormai è troppo tardi, dopo un po' però ti rendi conto che l'unione fa la forza. Terzo, i comportamenti cooperativi aumentano sensibilmente allorché è consentita e favorita la comunicazione fra gli individui cooperanti, il che dimostra almeno due cose: che aiuti più volentieri colui con il quale credi di condividere qualcosa che non piuttosto l'estraneo, e che Ceausescu, quando nel 1983 aveva proibito l'uso delle macchine da scrivere, evidentemente aveva le sue buone ragioni. Quarto, una variabile rilevante nella scelta fra comportamento cooperativo o elusivo è costituita dal tempo che gli individui si aspettano di condividere con il gruppo. Più a lungo i membri del gruppo suppongono che il gioco debba durare e più sembrerebbero disponibili a cooperare. Il che vuol dire che sagacemente dai una mano più volentieri laddove credi che i vantaggi conseguiti, beh, insomma, te li puoi godere anche tu. Quinto, qualora la maggior parte del gruppo abbia assunto un atteggiamento elusivo, beh, il primo individuo a decidere di cooperare di solito è quello che ha di fronte a sé, come dire, l'orizzonte più lungo, ovvero quello che ha buoni motivi per ritenere che il gioco continui e che continui a riguardarlo. Il che vuol dire che il primo che si dà da fare è quello che ha fatto 2 più 2 nel valutare il vantaggio conseguito anche come proprio. Infine, considerando il fatto che, esplicitamente o implicitamente, ogni gruppo è caratterizzato da una gerarchia dei suoi componenti, si è notato come il passaggio dall'uno all'altro dei due atteggiamenti avviene solitamente fra gli individui che occupano i livelli più bassi della gerarchia in questione. Il che conferma l'antica consapevolezza che il primo che si dà da fare è anche quello che ha meno da perdere nel sovvertire lo statu quo. Alla fin fine, nonostante i modelli matematici sul come e sul quando scatta un comportamento cooperativo ne sappiamo tanto come ne sapevamo senza i modelli matematici, forse un po' di meno. Nulla mi ha mai tolto dalla testa che su quel litigio di 30 anni fa, quello con il mio amico Paolo, con il noto filosofo, abbia pesato l'ultima ordinazione di Paolo. Quando ancora eravamo al ristorante, io mi ricordo come fosse ieri che, dopo che già ci eravamo rimpinzati come maiali, al momento in cui noi tutti ordinammo il caffè, un caffè normale, Paolo ne ordinò invece uno speciale, una roba, una specie, un mezzo dolce, non so che cosa, con chissà quali liquori esoterici, uno che costava 10 volte tanto. Bene, quel gesto presumibilmente fu considerato dal noto filosofo come il gestaccio del commensale senza scrupoli, l'indisponente prevaricazione di chi scarica impunemente sugli altri i propri comodi. Non è che lo so perché mi arroghi il diritto di essere entrato nella testa del noto filosofo in questione, no. Lo so perché la nostra occasione sociale era lievemente diversa da quella descritta da Glantz e Ubermann. Non era affatto implicito che il conto venisse suddiviso in parti uguali, anzi, era del tutto esplicito che il conto lo pagasse lui.